chiesto perché, che ho lasciato che le cose andassero da sole così. Parevano bene un giù di lì, scusami tu, che una casa ed un piatto in questa fredda pioggia tu non ce l'hai, che non hai fatto mai niente, ma sei finito in mezzo a tanti guai, e in tutto questo non capisci nemmeno per causa di chi. Ma i primi colpi sono partiti da qui. Scusami tu se non ho capito, scusami se non mi sono sforzato, se ho inneggiato per anni all'amore senza sapere cosa voleva dire. Scusami tu se sono stato assente, scusami perché sono ignorante, se ho lasciato le cose accadere, se ho guardato senza intervenire. Scusami tu, perché la guida dell'Europa in verità è stata una nostra scelta, che per esprimersi fa uso delle mani e che ha una visione colta, e che per anni ha seminato odio e adesso è l'odio che raccoglie. Scusami tu, perché in tutto questo caos in noi si tira spesso in ballo Dio, e ci roghiamo con parole altisonanti come democrazia, che ormai si esporta da 30 anni per portare progresso civile. Dove è qui la civiltà? Scusami tu se non ho capito, scusami se non mi sono sforzato, se ho inneggiato per anni all'amore senza sapere cosa voleva dire. Scusami tu se sono stato assente, scusami perché sono ignorante, se ho lasciato le cose accadere, se ho guardato senza intervenire. Scusami tu se sono stato cieco, se l'ho valutato come un gioco. Scusami se non ti ho mai pensato, scusami quando mi sono voltato. E scusami che non ho fatto niente, scusami se sono indifferente, mentre insisto nel giudicare, ora che hai tanto bisogno d'amore. Scusami tu, scusami tu, scusami tu, scusami tu.